Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Il premio l'ha vinto nel 1990, era il premio Sakharov, premio per la libertà d'espressione in Europa, riconosciuto ogni anno dal Parlamento europeo, ma per Aung San Suu Kyi soltanto oggi è stato possibile ritirare appunto il premio conquistato nel 1990. Quindi la rappresentante più famosa dell'opposizione birmana, ospite dell'emiciclo di Strasburgo, poco fa ha ritirato dunque il premio Sakharov. La disciplina delle finanze pubbliche è necessaria, ma è socialmente accettabile solo se c'è una ricompensa, una prospettiva. Così oggi il premier Enrico Letta nel suo intervento a Montecitorio in vista del vertice UE, dove ha parlato anche di immigrazione. Il tema di un nuovo approccio alla gestione del fenomeno migratorio nel Mediterraneo in particolare, per quanto ci riguarda, vuole essere uno dei punti, uno dei pilastri del lavoro della nostra presidenza, sappiamo anche di quella greca, e vogliamo ovviamente lavorare insieme, motivo per il quale abbiamo costituito un joint committee che seguirà, a partire dalle conclusioni di venerdì del Consiglio europeo, le due presidenze greca e italiana dell'anno prossimo. Chiederemo al Consiglio quattro impegni precisi. Il dramma di Lampedusa è una questione europea, misure immediate per mettere in atto il programma di sorveglianza Eurosur e rafforzare Frontex, un piano d'azione per la gestione dell'emergenza migratoria, il dialogo con i paesi del Mediterraneo. Il Presidente del Consiglio va dritto al punto, il capitolo immigrazione è centrale e per l'impatto emotivo con le centinaia di morti ripescati dal mare e per l'impatto economico. L'Europa deve rispondere con una sola voce. Da Bruxelles però la vedono in modo un po' diverso. Certo, chi scappa dal proprio paese rischiando nelle acque del Mediterraneo la propria vita è un problema di tutti, anche perché gli sbarchi avvengono sulle coste italiane, spagnole, greche, ma poi le domande di asilo arrivano in Germania, Francia, Svezia. Su mezzi e strutture però la Commissione ha parole chiare, a pronunciarle la commissaria Malmström. L'Italia ha avuto oltre 600 milioni dal 2007 al 2013 per gestire flussi e confini. Ora saranno stanziati altri 30 milioni. Sulle condizioni di chi arriva e viene poi ammassato nei centri di accoglienza bisogna intervenire. I centri devono essere dignitosi. In caso contrario, la Commissione è pronta ad avviare una procedura di infrazione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Unione Europea ha lanciato il nuovo programma di sostegno alle PMI per il settennato 2014-2020 e denominato COSME, un sostegno per tutti quegli ingranaggi utili alle piccole e alle medie imprese. Marco Malacarne è capo dell'unità cluster e piccole e medie imprese della Commissione Europea. Sentiamolo. COSME è un acronimo che viene dalle parole inglesi Competitiveness and SMEs, qui competitività e piccole e medie imprese. Quindi è un programma che si rivolge all'industria e cerca di aumentare la competitività delle piccole e medie imprese. Il peso economico, si tratta di un budget di 2,3 miliardi di euro per un periodo comunque di 7 anni, dal 2014, quindi dovrebbe cominciare con i primi bandi verso la fine di quest'anno, l'inizio del prossimo, e concludersi nel 2020. Si divide, diciamo, in 4 settori. Il principale, anche perché su di sé attira quasi 2/3 del finanziamento totale, è quello che aiuta l'accesso ai finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese. Con la crisi economica, la crisi del settore bancario, le piccole e medie imprese hanno sempre più difficoltà ad accedere a prestiti e investimenti. Qui si tratta, attraverso la Banca Europea degli investimenti e il Fondo Europeo per gli investimenti, di facilitare i meccanismi con i quali poi le banche si garantiscono i loro stessi prestiti. Marco Malacarne al microfono di Valeria De Rosa. In conclusione parliamo di shutdown. Naturalmente, dopo quanto accaduto negli Stati Uniti si è parlato e alcune indiscrezioni giornalistiche hanno sollevato la possibilità che delle complicazioni di questo tipo riguardassero anche l'Europa. Serve un rapido accordo tra Consiglio e Parlamento UE per colmare i buchi di bilancio, dice il portavoce dell'esecutivo comunitario Olivier Bailly, precisando comunque comunque che non ci sarà nessuno shutdown, perché l'Europa, l'Unione Europea anzi, continuerà a funzionare normalmente nelle prossime settimane. Dei 3,9 miliardi mancanti, 2,7 sono stati accordati oggi stesso dal Consiglio dell'Unione, e da marzo abbiamo identificato queste carenze, ha ricordato Bailly. Con questo chiudiamo l'appuntamento con l'Europa, che naturalmente torna domani poco dopo le 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.